Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti che torna in regia. Chi sta parlando? Io sto parlando. Secondo me non capisci di calcio. Verissimo, caro Mario Varotelli. Io non capisco di calcio, ma i nostri ascoltatori sì. E sono tutti convocati come ogni giorno, 800240024. Non serve capire tantissimo di calcio per capire quello che è successo ieri sera in Baviera. D'altra parte la Roma l'aveva intuito prima di tutti gli altri, eh. Dopo due filosofi, Luis Enrique, figlio del tiki-taka, e il vecchio profeta Zeman nei relativi disastri, ecco Garcia e la musica cambia. In Baviera, appunto, dopo la sconfitta più umiliante della loro storia, sono alle prese con, diciamo, i detriti del muro. A Carlo Ancelotti ieri sera è stato chiesto: ma hai ucciso il tiki-taka? E lui: il football non muore mai. Volevo questa dichiarazione, non siamo riusciti a trovarla. Abbiamo invece Pierluigi Pardo from London. Che bella, il football non muore mai. Football non muore mai. Il Bayern sì. Il Bayern sì, e Guardiola sportivamente ferito grave, ecco, almeno le sue idee di calcio. Sono piaciute le parole di Mourinho a proposito? Hai visto la conferenza stampa ieri? Sì, l'ho vista, e c'era una frase che sembrava assolutamente perfetta per quello che sarebbe successo da lì a un'ora. Perché la conferenza stampa di Mourinho è stata ieri sera più o meno intorno alle 7:30 sì. Italiane, quindi quella del il calcio è pieno di filosofi che sanno molto più di me e sostengono teorie analitiche fantastiche, è questa questa dove poi lui andrà avanti un minuto dicendo: quando noi avremo possesso palla dovremo attaccare, quando avranno possesso palla loro dovremo difendere, quando noi avremo nostro possesso loro dovranno difendere noi, quando avremo pallone in area di rigore dovremo fare gol. Ma insomma, alla fine è un discorso di una banalità irreale, certo. Ma chi era? Bersani, non il politico, il cantante, che diceva: complicare il pane, no? No, qui c'è la verità, è che poi spesso il calcio viene complicato da tutta una serie di filosofie, dottrine. Ci mettiamo anche noi, per carità, insomma, sicuramente adesso non possiamo dimenticarci per una partita quello che è stato il tiki-taka del Barcellona, quello che è stato Guardiola, il guardiolismo. Io continuo a pensare che comunque un'idea di calcio alto ti aiuta, no? E Guardiola ce l'ha questa idea. Beh, ma anche Ancelotti, dai Pier. Cioè, ma poi a me fa morire da ridere il discorso: questi sono difensivisti, fanno catenaccio, quello invece è profeta del calcio totale, tutti all'attacco. Poi vedi che ieri sera Carletto Nostro è andato all'Allianz sul campo dei campioni d'Europa in carica a difendere un golletto di vantaggio, e Bale, Modric, Di Maria, Mezzala, Benzema, Ronaldo, cioè non è che mancavano gli attaccanti, e si è visto. Ma poi guarda, ti posso dire, cioè, tu pensa per esempio al materiale umano che ha a disposizione Ancelotti, no? Benzema, Cristiano Ronaldo, per esempio Bale è un giocatore che può fare tranquillamente, Bale e Di Maria possono tranquillamente fare gli esterni del centrocampo. Lui qualche volta gioca 4-3-3, qualche volta gioca 4-4-2, ma con Meire e Di Maria esterni di centrocampo sfido chiunque a dire che è una formazione difensiva. Ma no, ma stai scherzando? Cioè, ma Mourinho non andava a giocare con Sneijder, Pandev, Eto'o dietro a Milito? Non sono quattro, non sono quattro giocatori, ma comunque prettamente offensivi. Sai quella differenza? Ma poi noi siamo il paese di Machiavelli, non possiamo scandalizzarci, cioè il fine giustifica il mezzo. Ma sai qual è la differenza tra chi ci crede e chi non ci crede? Perché anche nel Real Madrid di Mourinho dell'anno scorso, che era praticamente la stessa squadra, meno Bale più Higuain, Morale, era la stessa squadra, non ci credevano, perché non credevano in lui. Nel Chelsea ci credono ciecamente, così come al Real Madrid tutti quei giocatori che sono super giocatori si butterebbero nel fuoco per Don Carletto. Questa è la verità. Io continuo sempre di più vivo, adesso sembra un discorso quasi da sintesi filosofica per cui mi autocensuro, però più vedo cose, più vedo calcio e più giro e vedo, e mi sembra che contino gli uomini, non c'è niente da fare. Ancelotti è un mito perché è una grande persona, oltre che un grande allenatore. È una grande persona, si fa amare, si fa voler bene, tira fuori il meglio dai giocatori, lo fa con una autorevolezza enorme. In modo diverso da Mourinho, perché anche Mourinho fa la stessa cosa, in modo molto diverso da Mourinho, quasi opposto. Sì, ma poi voglio dire, l'importante è che qui è il risultato, no? se tu un ragazzo riesci a migliorarlo con il bastone o con la carota, con un sapiente mix di queste due cose, o parlandogli o sgridandolo, usando insomma le categorie filosofiche del dialogo e invece della fermezza, che sono due cose diverse, ma mescolate nella misura e nella percentuale che l'intelligenza, ecco, torniamo a quel punto lì, torni all'intelligenza, insomma, io penso che Ancelotti abbia fatto un capolavoro in queste due partite, penso che non si possa difendere così male come Dante Boateng, penso che la linea del Bayern, io ho visto la partita qui sulla TV inglese, c'era lo studio di metà partita, lo facevano Lee Dixon, uno dei miei eroi, e Roy Keane, un altro dei miei eroi, e alla fine del primo tempo Lee Dixon ha detto una cosa che però secondo me era vera, cioè che si vedeva fin dai primi minuti che la difesa del Bayern era altissima, era altissima, che il livello di aggressività sul portatore di palla del Real Madrid era molto basso, e quindi era sfilacciata, e quindi non c'era musica, non c'era energia, e il Real ha fatto gara di porco. Poi ci sono gli episodi sicuramente, insomma, 34 minuti, 3 gol, cioè partita che non è mai cominciata. Dispiace un po' perché la stavamo aspettando come la partita più bella del mondo, l'abbiamo battezzata così, ma io ci credo ancora. Poi insomma, come tutte le guerre di religione, non poteva finire in modo banale, doveva per forza finire in modo sportivamente cruento. Ne parliamo insieme subito dopo il traffico. 800 24 00 24, ovviamente aspettiamo gli ascoltatori, cui al migliore in campo come sempre una maglietta di tutti i convocati senza banana, perché poi c'è anche questa storia della maglietta con la banana che secondo me quest'estate troviamo in vendita nei negozi, griffata a 25,99 o a 21,99 su eBay. Questa è un'altra storia, ne parliamo dopo. Intanto strade, un grandissimo sacrificio, e quando si sacrificano i grandi campioni può succedere che vinci anche 4-0. Tutti convocati. Calcio d'angolo, 5 giocatori di Ancelotti in area, parte lo spiovente e Sergio Ramos di testa porta in vantaggio il Real Madrid, sfiora Pepe e c'è ancora il gol del Real, sempre con Sergio Ramos, ed è 2-0 per il Real. Attenzione alla ripartenza del Real, Benzema per Gareth Bale, che entra al limite dell'area, poi arriva Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mette lui il punto esclamativo. Va Ronaldo, eccolo qua, il gol 250 con la maglia del Real Madrid, lo segna l'Allianz Arena, doppietta di Sergio Ramos, doppietta di Cristiano Ronaldo. Paolo Condò, inviato la Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grandissimo. Qual era il tuo filosofo preferito a scuola? Platone, Aristotele, Kierkegaard, oppure andavi su Socrates con la S? Mi piaceva molto Parmenide, l'essere Parmenide. Non essere A te, Pardo? Pierluigi? Sì, ecco. Chi ti piaceva a scuola quando studiavi filosofia? A Condò Parmenide. A te? Nietzsche. Sì. A me piaceva l'intervallo, cari miei, mi piaceva solo l'intervallo e anche l'ora di ginnastica, quando si giocava a calcetto. No, Paolo, stavamo dicendo io e Pierluigi che ieri sera è stata alla fine una guerra di religione calcistica, e come tutte le guerre di religione non poteva non finire in modo sportivamente cruento. Così è andata? Ma secondo me no, perché... Voglio dire, allora adesso tutti quanti stiamo celebrando i funerali del Tiki Taka. È morto o è vivo? È morto il calcio olandese? Il calcio olandese non morirà mai, il football non muore mai. Il calcio, il Tiki Taka non è altro che una delle elaborazioni del passaggio dei tempi del calcio olandese. Dico, c'è stato il calcio olandese e che ha vinto poco tutto sommato rispetto alla sua qualità. È riemerso 15 anni dopo col Milan di Sacchi, che invece ha vinto tantissimo. Poi anche quello Capello ha preso il sopravvento sul Milan di Sacchi, tornando a un'immagine più tradizionale, più italianista del calcio. Poi è riemerso altri 15 anni dopo con il tiki-taka di Guardiola, adesso sta declinando probabilmente, non ho dubbi che riemergerà, cioè non muoiono mai queste scuole. Una prende il sopravvento su, è un pendolo, una prende il sopravvento su un'altra in una determinata fase storica, anche dipendendo ovviamente dagli uomini che la interpretano. Chiaro, e forse qui sta il senso di tutto. Giro la considerazione a Pierluigi che è questa: sono comunque sistemi di gioco molto sofisticati che richiedono piena disponibilità, credo, Pierluigi, che richiedono qualcosa di più del semplice allenamento, della semplice applicazione o dedizione. Devi essere in qualche modo votato a giocare in quella maniera lì, e l'allenatore deve avere in mano completamente la situazione, tutti ci devono credere, e devi avere caratteristiche particolari, cioè non sono cose così semplici da trovare o da costruire. No, però sono cose che se tu riesci a inculcare nella testa dei giocatori poi rappresentano un aiuto, cioè la grande teoria di tutti quelli che giocano un calcio, diciamo, un po' più ideologico, no? Con un'idea molto precisa, quindi un po' meno istintivo e un po' più organizzato a tavolino, è proprio questa, che all'inizio magari può essere più difficile registrare certi movimenti, ma che poi questi movimenti rappresentano un sicuro vantaggio andando avanti. Poi però ci sono gli uomini, cioè quello che dice Paolo è verissimo. Poi ci sono gli uomini, poi c'è Cristiano Ronaldo che spariglia, poi ci sono Dante Boateng veramente male, come diceva Stramaccioni, e poi ci sono le fasi storiche, poi ci sono i giri di vento del destino, perché pure vero che il Bayern nel primo quarto d'ora un paio di possibilità di trovare il vantaggio con Real le aveva avute a Madrid, e magari poteva girare tutto. Insomma, è il calcio. È la meravigliosa bellezza del calcio, che soprattutto nelle partite, nelle competizioni con la partita secca o con comunque 180 minuti, può regalare delle enormi sorprese, insomma. Però è straordinario, perché veramente in questa ragione, Mourinho, c'è un dibattito filosofico eccessivo su questa roba qui. Io sono molto contento, perché chiaramente la parola tiki-taka non è mai stata utilizzata così tanto. Sì, anche se c'è chi ti suggerisce di cambiare il titolo del programma in contropiede o in catenaccio. Io proporrei un bel catenaccio. Mi ricordo all'inizio dell'anno, andai a tagliarmi i capelli dal Selvaggio, che saluto a Roma, che è il mio parrucchiere, barbiere, insomma. Il Selvaggio. Fa un po', Selvaggio si chiama, Selvaggio, sì. Ecco perché sei sempre la testa. Come si chiama questo programma? Gli faccio solo tiki-taka. Ed è uno comunque che il calcio lo segue mediamente, insomma, mi ero un attimo preoccupato dicendo forse abbiamo sbagliato il titolo, volevamo fare l'effetto Ballarò e non c'è riuscita. E insomma, a distanza di mesi questa parola ormai è utilizzata in tutti i modi ed è oggetto di un dibattito, ripeto, anche eccessivo, perché poi alla fine vedi quando parla Ancelotti ti dice sempre le stesse cose, cioè Ancelotti ti dice: se io posso avere il possesso di palla mi piace, ho avuto l'idolo come maestro, no, certo, se non mi piace, certo, palla. Il dibattito eccessivo, però ci sono delle cose curiose, carine, dipendere, interessanti, a parte che c'è chi ha vinto un sacco di soldi perché ieri ha scommesso Sergio Ramos primo marcatore. Intanto faccio notare che Cruciani l'altro giorno ha già sbagliato pronostico perché aveva detto Bayern Monaco, e questo mi piace sottolinearlo. Io pure l'avevo detto, io anche tu, Bayern Chelsea, sì, bravi. Io rimango con Real Madrid Chelsea, poi metà l'ho preso, poi vediamo sarebbe la finale più bella, secondo me, con tutto rispetto per Simeone, ma non essendo noi residenti nel comune di Madrid, oggi succederà una cosa strana, perché tutta la città farà, tutto il mondo farà il tifo per l'Atletico per un sacco di ragioni. No, Paolo Condò, volevo fare secondo me sì. Dai. Sì, tutti quanti. Il Real non vuole Mourinho fra le scatole. Ma stai scherzando? Ma guarda che Mourinho rischi qualcosa. Mentre secondo me una finale, un derby madrileno è una. E Mourinho li conosce alla perfezione. Ma sì, il Real rischia più con l'Atletico che col Chelsea. Non sono d'accordo. Mourinho ti entra sotto la pelle, poi ci sono pregressi, cioè c'è una storia. Cioè, dai, questo qua ieri fa allenare Cech, recupera Terry che era morto, ma ne sa una più del demonio. Io non vorrei trovarmi contro in una partita secca uno come Mourinho. Probabilmente sulle due più pericoloso l'Atletico. Paolo, tornando a questo tramonto del tiki-taka che fa impazzire dalla rabbia agli esteti, siamo al secondo atto, perché l'anno scorso, anche questa è una curiosità, era stato il Bayern a ferirlo a morte 7-0 al Barcellona. E adesso il Bayern deve raccogliere i cocci. 0-5 dal Real Madrid, fa tiki-taka 0, il resto 12. Non so come definire. Sì, no, io contesto il fatto che quello di quest'anno del Bayern, soprattutto dopo l'infortunio di Thiago in quest'ultimo periodo, si possa chiamare tiki-taka. Nel senso che io chiamo tiki-taka quei 4 anni di Guardiola al Barcellona, nei quali la palla gira come in un flipper impazzito, ha una velocità pazzesca e riesce in questo modo ad aggredire e battere anche le difese schierate, che è la cosa più difficile del calcio d'oggi. Sì. Battere una difesa schierata, soprattutto quando è fatta di eccellenti difensori come per esempio ieri il Real Madrid. E Guardiola viene chiamato a Natale, ricordiamoci quando viene messo sotto contatto al Bayern, a Natale. Viene chiamato a Natale dopo che il Bayern ha perso in casa in maniera grottesca una finale di Champions League contro il Chelsea e dopo che la sensazione è che quel gruppo di giocatori ultra trentenni, da Ribéry a Robben a Schweinsteiger, hanno dato il loro meglio, e allora dicono: c'è Guardiola sul mercato, impostiamo un programma triennale. Difatti Guardiola per la prima volta nella sua vita, lui a Barcellona aveva sempre firmato contratti annuali, per la prima volta nella sua vita ne firma uno triennale, perché c'è un lavoro in profondità da prendere, da fare. Dopodiché il calcio ha sempre più fantasia di noi, e Heynckes vince tutto. Sì. Heynckes vince tutto, e quello che doveva essere un'opera di rifondazione del Bayern diventa un esame a Guardiola: vediamo se riesce a rivincere tutto, altrimenti è una pippa. Questo è stato sostanzialmente. È chiaro che non è una pippa, ma non è neanche uno che è disposto a scendere a patti con le sue idee. Ma allora ditemi voi cosa c'entra con i dettami di gioco di Guardiola, cosa può c'entrare mai Robben? Sì. È chiaro che loro, nel momento in cui Guardiola firma, dicono: bene, faremo un po' di mercato, Robben è uno che piazziamo da qualche parte, ci vale ancora qualche soldo. C'entra poco anche Mandzukic, come abbiamo visto ieri sera. Sì, ma dico, dopodiché Robben ti fa gli ultimi 2 mesi come te li fa, ti segna il gol decisivo della finale di Champions League, ovviamente come fai a venderlo? Deve rimanere Robben. E però Guardiola deve iniziare la sua opera di rifacimento del Bayern con una rosa che non contiene un gran numero di giocatori adatti al suo tipo di calcio. Sì, e non è neanche, dicevamo prima, Pierluigi disposto a scendere a patto con le sue idee, perché non è che ha modificato qualcosa in funzione dei giocatori che aveva, come invece Fancelotti, come invece è tendenzialmente portato a fare anche Mourinho, è integralista, come tutti i filosofi. Ma scusa, sì, come, però dimmi. Prendo un attimo la parola prima di Pierluigi. Nel momento stesso in cui mette a giocare Mandzukic, l'ha fatto sia a Madrid che a Monaco, è chiaro che non è integralista, che deroga da quelle che sono le sue filosofie, perché lui un centravanti come Mandzukic non lo prevede nelle sue squadre. Però lui cerca di adattare, non lo fa abbastanza bene, questo non c'è dubbio, però cerca di adattare. Resterà lì, secondo te? Sì, non c'è nessun dubbio su questo. Guarda, io penso questo, che a proposito di Mandzukic, che la cosa, il vero paradosso è che poi lo vedi, per esempio a Madrid, lo vedi giocare fuori dall'area di rigore. Cioè, succedono delle cose che capisci che sono dei nonsensi, nel senso che se voi riprendete la cassetta della partita dell'andata, che offre tantissimo, ancora di più di quella di ieri, insomma, Mandzukic gioca a sorpresa al posto di Müller e fa l'attaccante largo. Cioè, è una cosa che è un controsenso, sembra veramente Guardiola abbia in certi momenti una specie di problema filosofico, religioso con l'idea che ci possa essere. Ed evidentemente i giocatori, rigore, no? Non c'è fiducia reciproca, cioè Guardiola non ha fiducia in giocatori di quel tipo ed è reciproco, i giocatori non si trovano bene. È chiaro che manca la fiducia reciproca in questa squadra. Sì, però stiamo scusate, io ho il ruolo dei difensori di Guardiola. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto il campionato con 7 giornate di anticipo e che è in finale di Coppa di Germania. Sì. Mettiamo che la vinca, hai fatto campionato, Coppa di Germania e semifinale di Champions League, ne stiamo parlando come di un fallimento. Sì, però Paolo, conta anche l'immagine, però, perché uscire in questo modo 0-4 in casa con il Real, secondo me questo, cioè anche la forma diventa sostanza. Assolutamente, sì, ma le partite impazziscono a un certo punto. Paolo, ti ringrazio. Ringrazio Paolo Condo. Mi tengo ovviamente Pierluigi Pardo, che è a casa sua. Sentiamo la borsa, poi cominciamo anche a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Sarà inevitabile, ma lo sentiamo un po' anche nostro, questo trionfo, perché Carlo Ancelotti è italiano, ma ci piace soprattutto lo stile. Vi ringrazio, se lì lo sentite fine. Anche vostro, teniamo alto il football italiano. Tutti convocati. The reality is always the reality. A team that doesn't defend well doesn't have many chances to win. A team that doesn't score lots of goals, if concede lots of goals, is completely in trouble. They are not a counter-attack side, they are a good side. They defend well. They score goals. They win matches. It's a game. It's a knockout game. It's a game of details. It's a game where maybe, we don't know, but maybe one goal. Riesce a fare dei mind games, anche, essendo banale, peggio tanti, di catalano. Neanche tanti. Ieri non li ha fatti. No, ieri ne ha fatti. Beh, insomma, dai, quello di far allenare Čeka a beneficio dei fotografi col pallone in mano, come dire, siamo tutti disposti a dare le braccia pur di vincere questa partita. Dai, sì. Quello è un mind game mica da poco, eh. Il recupero miracoloso di John Terry che stasera giocherà. No, beh, però non sono mind game, sono, diciamo, cose da fare prima di una grande partita. No, io ti dico che non c'è stata la, diciamo, il Mourinho tagliente, sprezzante che si era visto in altre occasioni. È stato molto rispettoso questo spezzone che abbiamo mandato, insomma, grande rispetto per l'Atletico Madrid, non è solo una squadra da contropiede. Sì, la sensazione, guarda, se proprio dobbiamo diciamo overinterpretare le ultime dichiarazioni di Mourinho, di Ancelotti, c'è l'idea che questi allenatori si siano un po' rotti le scatole di sentirsi figli di Dio minore, ecco, questo sì, sì. Questo sì. Poi il caso del Chelsea chiaramente è il caso più eclatante, perché si è parlato molto, soprattutto in Spagna, di questo famoso pullman parcheggiato nella propria area di rigore. Nel Madrid ha meno problemi, però anche a Carlo comunque gli rompono le scatole. Io raccontavo l'altro giorno della conferenza stampa dopo l'andata tra Real Madrid e Bayern, con Guardiola che è venuto lì a dire che nella storia del Real ma sai quanto ha goduto Carlo Ancelotti ieri sera, dai, ma poi no, ovviamente lui non è il tipo che te lo viene a dire, Mourinho te l'avrebbe anche detto. No, a proposito di mind games estremi, poi comincio a parlare con gli ascoltatori, Gianluca, Franco, Mario, state lì che tocca a voi. 800 24 00 24. Mind games estremi, ieri il signor Piantanina mi faceva notare una cosa, sai quale? Riguarda l'abbigliamento. Allora, Mourinho quest'anno va in panchina sempre in tuta, sembra Mazzone, o la tuta nera o quella bianca, un orrendo smanicato, sta tuta un po' oversize che lo ingoffa un po', cioè all'Inter vestiva Prada, a Real Madrid sempre elegantissimo, sai, conosciamo bene, no? Mentre lì fa il proletario, come a dire, oh, i ricchi sono altri, i potenti sono altri, guardate il Bayern, il Real questi altri, noi quest'anno siamo low profile, guardate che attaccanti che ho, cioè uno ha 90 anni, l'altro che non segna dagli anni 70 quando è nato, Dembaba che non conosceva nessuno, entra e fa i miracoli, noi quest'anno siamo proletari e io faccio il proletario, abbiamo una squadra che vabbè, parcheggia il pullman e allora fateci gol. Cosa ne dici? Chiamo uno stilista? Me la faccio interpretare da uno stilista? Non lo so, il signor Cruciano, forse no, il signor Dolce o il signor Gambana. No, io penso che perché tutto è vero, cioè forma e sostanza si mescolano, e quindi è esattamente come, per dirti banalmente, il conduttore del telegiornale ha la cravatta, magari quello di un programma per ragazzi non ce l'ha, allo stesso modo questo può avere un significato, e l'interpretazione può essere anche sicuramente quella. Lui quest'anno ha giocato molto con il low profile rispetto al Mourinho, certo, delle altre stagioni, quello che era arrivato in Inghilterra dicendo vinceremo il campionato alla penultima giornata, insomma quest'anno è stato un profilo completamente basso, un po' perché oggettivamente ha una squadra un po' meno forte rispetto al passato. Se tu guardi, guarda, molto banalmente, se guardi il numero dei gol segnati nella stagione delle quattro semifinaliste, il Chelsea è quella che ha il numero più basso. Il Chelsea è l'unica delle quattro squadre semifinali che ha segnato meno di 100 gol in stagione, non ha attaccanti con numeri strepitosi, anche a livello di Champions League mi pare che il record ce l'hanno tre giocatori con tre gol, per cui insomma non ha le punte di talento e di forza che erano in passato o che hanno degli altri, insomma questo è nei fatti, questo è nei fatti. Assolutamente. Gianluca Milano, buongiorno. Sì, ciao a tutti. Ciao. Io volevo tornare un attimo sul Bayern, sul crollo del Bayern. Secondo me è una questione, a parte che la banalità di Mourinho, ne dico una anch'io, uno deve vincere, quindi tra Guardiola e Ancelotti avrebbe vinto. Sì. Però il calcio di Guardiola anche nel Barça si basava totalmente sull'intensità. Il fatto di aver vinto il campionato a marzo, secondo me, ha tolto nell'ultimo mese e mezzo una grossa parte di intensità a tutta la squadra. E poi se non c'è quella, Dante prende le farfalle, tecnicamente non sono dei fenomeni. Scusa, Gianluca, ma non siamo qui a dire che è il nostro il campionato che fa schifo, quello che non è competitivo, non è probante, quello tedesco finito, l'abbiamo detto molte volte, c'era ancora la neve per terra, gli addobbi natalizi che dovevano essere smontati, voglio esatto, dire. Ma a parte la Liga di quest'anno, solo la Premier da questo punto di vista è probante, nel senso che vince assolutamente sempre qualcuno. Assolutamente, è quello che sostengo anch'io. Premier che è un campionato totalmente sui generis, che non ha termini di paragone, non è parametrabile a nessun altro, quindi secondo te la colpa, tra molte virgolette, è quella del campionato tedesco finito così presto? Ma la colpa, secondo me, se si fosse giocato adesso uno scontro ancora nel campionato col Borussia, probabilmente un po' di intensità, un po' di elettricità nei giocatori sarebbe ancora... Dall'altro lato Pierluigi, potremmo dire che ha potuto far riposare la squadra, magari poteva fare un richiamo di preparazione atletica, cosa evidentemente non ha fatto, perché mi sono sembrati assolutamente piatti questi dal punto di vista atletico, poteva lavorare in altra, cioè poteva avere altri vantaggi o no? Sì, poteva avere altri vantaggi, poteva fare, forse ha anche fatto questo richiamo di preparazione, ci può stare il ragionamento. Io credo che ci sia anche il concetto, forse il campionato poco allenante, no? La famosa frase di Capello applicata all'Italia. Il Real Madrid ha eliminato tre avversarie tedesche nella fase head to head, no? Dell'eliminazione diretta della Champions League. Lo Schalke ha vinto 6-1 all'andata e poi 3-1. Col Dortmund ha vinto 3-0. Poi c'è stata una partita da incubo che però secondo me alla fine ci ha fatto 5 vittorie e una sconfitta contro Schalke, Dortmund e Bayern. Sì. Considerando un episodio che, per carità, un episodio che poteva costare carissimo, la sconfitta di Dortmund, noi quella sera eravamo al Vinitaly, ti ricordi, stava succedendo il Maracanã al Westfalenstadion, però non c'era Cristiano Ronaldo, insomma. Non lo so, c'è pure la possibilità che sia stata semplicemente una notte sbagliata. Per il resto ha vinto 5 partite su 5 con le squadre tedesche, e a queste squadre tedesche il Bayern ha dato 20-30 punti in campionato. Quindi insomma, forse c'è anche questo. Ragazzi, la Bundesliga è una roba brutta, lo dico con affetto, con rispetto, stadi meravigliosi, però quest'anno è stato un campionato ridicolo, campionato deciso, cioè è stato più incerto il francese. Ma no, è stato tenuto, certo nettamente punto, no? Più incerto francese, anche se pure lì c'è una disparità tra... Ma ormai, insomma, io penso che questa oligarchia di 5-6 squadre siano inarrivabili nei rispettivi campionati, cioè siamo diventati quasi anacronistici i campionati. È il meccanismo della Champions, è il motivo per il quale le squadre italiane si devono brigare, perché la Champions è un treno che finisce per allargare la forbice fra le grandi e le piccole. Certo, certo. Tu il Verona e la Sampdoria, purtroppo lo dico perché penso che sarebbe bello, no? Romantico che ogni tanto ci fosse una sorpresa nel nostro calcio. È molto difficile, secondo me, che ci possano essere nei prossimi anni, perché perché più si va avanti e più, se sei ricco, continui a essere ricco, perché la Champions League è il grande acceleratore, quindi se la fai hai accesso a degli investimenti di un certo tipo, se non la fai rimani dietro. E quindi noi abbiamo già il problema che abbiamo tre squadre, quello lì è il treno da non perdere. E se tu guardi oggi, se tu guardi gli ultimi anni anche a livello europeo, ma le sorprese sono state sempre meno, le squadre che arrivano in Mourinho è la quinta semifinale consecutiva, ma che vuol dire? Poi parlano di fair play finanziario, ma sappiamo bene e lo stiamo scoprendo come anche questa rischia di diventare una trovata barzelletta, dai. Una trovata un po' naif, un po' così, che ha consentito a molti di lavorare sull'alibi, non spendiamo perché c'è il fair play finanziario, quando sapevano benissimo che si andava a finire in questo modo, perché ai soldi non rinuncia nessuno, e nemmeno a quelli che vengono iniettati da altrove, che sia gli Emirati Arabi o la Russia. Franco da Modena, poi salutiamo Pardo. Dove sei? Dove ti trovi a Londra? Sto davanti allo stadio, perché c'è lo sciopero della metropolitana. Bus a due piani? È arrivato Sabino Nela, poi c'è Marcheggiani, Nando San Vito, andiamo a pranzo, mangiamo una cosetta, poi torniamo a preparare la partita. Gli ex calciatori dormono, c'è questa cosa che denuncio questo fatto, mantengono questa sana abitudine della pennica. Certo. Quando parli con Marcheggiani o Sabino ti fanno però andiamo presto che poi devo fare un'ora e mezzo di sonno, tranquillo, capito? E hanno questa cosa sanissima, tra ragazzi, l'altro. Sono abituati molto. Così, sono abituati così. Giustamente, Franco? Con la sì, eccomi. Sì. Eccolo, sta facendo a pennica anche lei, no? No, sono qui pronto per lei. Benissimo, sveglio, dica. Allora, io voglio fare un saluto a Pardo. Oh, viva la Juve, chi dice viva la Juve? E di viva la Juve in sottofondo. Sono degli amici dei colleghi di lavoro. Però io sono napoletano, sono tifoso del Napoli. Viva la Juve! E volevo fare un elogio ad Ancelotti, perché è un signore che ha portato, diciamo, il nome dell'Italia in alto. Sì, e anche e soprattutto il suo. Intanto lei continua a dirle viva la Juve, lei che è napoletano. Gli allenatori, sì, vince i Chelsea, è stato il merito di Mourinho, e diamo anche il merito ad Ancelotti, che quando si vince a Madrid è il merito suo. Caro Franco, tutta la mia solidarietà per gli stalker che ha alle spalle e per le angherie che sta subendo, ma i meriti Ancelotti, caro Pardo, chi glieli leva? Siamo qui a dargli tutto, ma chi glieli leva i meriti Ancelotti? A parte il fatto che Ancelotti non lo definire neanche un allenatore italiano, è uno straordinario allenatore europeo. Ancelotti è un figo, ieri ho fatto un tweet, diffidare sempre delle persone miti, ma miti nel senso non di mito, le persone gentili, perché le persone gentili che hanno Ancelotti ha una marcia in più, è un grandissimo allenatore, l'ha sempre dimostrato, quando c'è da incazzare, come è successo per esempio nella famosa stagione della vittoria ad Atene, che fu una stagione complicatissima con un Milan orrendo, con il presidente che era molto presente, insomma, giustamente, insomma, metteva anche la sua pressione. Ancelotti ha vissuto dentro una grotta per mesi e poi alla fine ha tirato fuori il meglio da quella squadra. Per me è un fenomeno, ha una continuità di rendimento che è incredibile. Poi a me piace molto questo riuscire a vincere senza dover per forza essere autoritario, sì. E credo che sia la sua chiave di comunicazione nei confronti dei giocatori, che alla fine lo amano e quindi riescono a tirar fuori. Ma io credo sia un grandissimo psicologo. Sì, credo sia una persona di enorme buon senso e di un carisma incredibile, che magari nella comunicazione televisiva viene poco fuori. Sì, ma all'interno della squadra, esatto. Ma come no? Si sente, come tant'è vero che è riuscito a trasformare in maniera pazzesca alcuni giocatori, l'ultimo dei quali Di Maria. Ne parliamo dopo. Grazie Pierluigi, sentiamo domani. L'ultima cosa, se la finale dovesse essere Chelsea Real Madrid, avremo a quel punto il secondo, chi vince diventa il secondo allenatore dopo Paisley del Liverpool a vincere la Champions, la Coppa dei Campioni, tre volte. Quindi sicuramente sarebbe un evento storico, sarebbe uno spareggione Mu contro Ancelotti, ma lo sapremo domani. Lo tutti sapremo convocati vivendo. Torna tra qualche istante con Carlo Genta dopo il traffico, con Carole Rocca. Tutti convocati. Vi ricordo che abbiamo delle magliette da inviarvi, senza banana, di quelle con la banana parliamo dopo, senza banana ma con scritto sono stato convocato, maglietta grigio chiaro con la scritta verde, bellissimo, scudetto di tutti i convocati e dietro radio, sopra sulle spalle, 24 come un numero di una maglia da calcio e me la suono di notte, non me la danno, la danno a voi, al migliore in campo tutti i giorni tra i nostri ascoltatori, 800240024, oltre che quella poi autografata da ritirare qui per stare in questo studio per una puntata di Tutti Convocati, per dire la vostra, tutto quello che pensate sullo sport. Trovate tutto sul sito, come, come si fa? Lo trovate sul sito radio24.it, inviate un file MP3 della durata di un minuto su, con il vostro commento sul fatto della settimana. In questo caso sarà ricordo del grandissimo Ayrton Senna. Ayrton Senna che ricorderemo anche domani, ve lo ricordo con un prodotto speciale alle 15.30. Mario, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Grazie. Io se fossi Ancelotti non vorrei un cagnaccio come Mourinho fra le scatole. Ma sono mica matto. Simeone studia da cagnaccio ma ancora non lo è. Ma sì, ma già poi arriverà ci... forse. Ma poi ci sono tante di quelle implicazioni in una sfida di questo tipo che insomma vorrebbe dire complicarsi la vita. Infatti io sono convinto, al contrario di quanto di quello che pensa Pardo, che a Madrid questa sera ci sarà tutta la città a fare il tifo per l'Atletico, cioè tutta la città, quelli dell'Atletico, i colchoneros, ma anche i blancos, tutti uniti a fare il tifo per motivi molto diversi, a fare il tifo per quella squadra. La finale di Coppa Italia invece come la va, Mario? Ma io, a me non mi interessa, perché io sono dall'altra sponda nel senso calcistica, io sono Quale? Juventino. Piano con le parole. Dico solo una cosa su Conte che mi preme, se sì. Conte vince vada Marotta e gli chiede il mercato, se non glielo fa come vuole lui, bene, vada via. Dove? Non lo so, di panchine libere in Europa c'è tantissime, si sta sentendo che quello ha mandato via, quell'altro sì, hanno rinnovato il contratto. Infatti lei sa che a quanto pare gli agenti di Conte, vabbè, questa è la storia della settimana scorsa, lo hanno offerto al Manchester United, che però pare abbia detto non abbiamo altre idee. No, lui rimane se gli comprano quello che vuole lui, perché giustamente qui se no il campionato sì, se ne frega tutti i campionati, io voglio la Champions. Ho capito, ma non è che anche la Juventus cioè non c'ha tanta voglia di farsi ricattare? Cioè, non ho lo capito, so, ma 70 milioni per Pogba se riesce un po' a comprare qualcuno. Sì, intanto vediamo, i 60 milioni, vedere soldi, dare soldi, vedere cammello e poi si vedrà. Certamente Conte metterà delle condizioni, però la Juventus di questo... rinnovo contrattuale, prolungamento contrattuale dilatato, dilazionato, sottoposto a condizione, insomma può essere che non siano molto contenti, ecco, e poi vediamo se alza una coppa, questo farà molta differenza. Hai inciso il tiki taka? No, il football non muore mai. Hanno ucciso il tiki taka, chi sia stato non si sa. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Ti ricordi la canzone? Hanno ucciso il tiki-taka. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. No, dai, non è ancora morto, temporaneamente. Non sta benissimo però. No, diciamo no, ha preso una botta un po' così. Beh, quest'anno facciamo due, 12-0 tra l'anno scorso e quest'anno. Però... voglio dire, non è del tutto defunto, secondo me. E se quest'anno il povero Guardiola era assediato dall'italianismo tra Mourinho, Simeone e Ancelotti, no, però al di là del pubblicità che ieri è stato ucciso il Bayern, sì. Non ha fatto niente, già l'ha andata un tiro al 90esimo. Appunto, sì, però l'andata equilibrata, equilibrata anche perché io ho visto, diciamo, il Barcellona in difficoltà tante volte quest'anno, no? E io l'ho anche scritto, dico, il tiki-taka va benissimo, però richiede uno sforzo, una preparazione fisica mostruosa. Certo, e richiede anche dei giocatori che ci credano fino in fondo come fosse una religione, secondo me. Sì, però allora, tu c'hai Xavi Hernandez, no? Simbolo del tiki-taka. Questo prendeva la palla, si tirava su se stesso a una velocità stratosferica e trova il passaggio, il taglio che vedeva solo lui, perché è un giocatore fenomenale, e aveva i compagni che correvano perché sapevano che lui la metteva lì, e era tutto molto rapido, in più accompagnato da un Busquets spettacolare che quasi da solo recuperava il pallone molto alto, no? e lo distribuiva a Xavi e via dicendo. Per fare questo ci vuole un fisico bestiale. Sì. Non è che i tedeschi abbiano poco fisico, Phil, abbi no, pazienza, sono degli atleti mostruosi. Però non ci arrivano. non ci arrivano a farlo. Non ci arrivano, ma perché secondo me questo espianto, questa strana creatura geneticamente modificata è un po' troppo bizzarra. Sì, però lungo il Bayern è stato fenomenale quest'anno. Ma il Bayern è una squadra fortissima, è questo che deve essere chiaro. Il Bayern è una squadra fortissima, vale ampiamente questo Real Madrid. Cioè sono due squadre che secondo me anche dal punto di vista qualitativo si equivalgono. Ma sì. io voglio che tu, abbiamo due minuti e tu mi devi togliere un dubbio, perché c'è questa diatriba tra me e Pardo che è a Londra, quindi adesso non è collegato. Ma a Madrid, per chi si fa il tifo stasera? Vabbè, lasciamo stare col Colchoneros, questo se va a sandir. Ma i madridisti per chi tifano? No, perché passi l'Atletico. Infatti c'ho ragione. Hai visto? Perché passi l'Atletico. Per due motivi. Uno tutta di campanile. Come dicono qua, la Jihad murinista, dopo avrebbe il cuore diviso. Ovviamente ti farebbero Real, però è come, non so, come un Inter-Chelsea. Sì. Lo stesso è l'interista. Sì, la differenza che non, lì non lo potevano vedere. No, però ce ne sono molti che è come se non lo possono vedere. Qui la Jihad è corposa. No, quindi poi ci sono tutti quelli che non lo potevano vedere, che avrebbero il grande timore, non sia mai che Mourinho gli toglie la decima. Quindi sia chi lo odia sia chi lo ama non lo vuole vedere. E hanno ragione in pieno, guarda. Esatto, e poi si sentono comunque sempre un filino superiore all'Atletico Madrid. Diceva, vabbè, sì, questi quest'anno tutto bene, sono forti, bravi, Simeone, sì, il ciolismo, però noi li battiamo. Sì, e io ci credo, li battono, ma anche facile. Cioè, secondo me, non lo so, cioè, secondo me, se arriva l'Atletico. Poi siamo nel campo delle ipotesi. Esatto, dell'Atletico, siamo nelle ipotesi. Però l'Atletico lo vedo bene, però io stasera continuo a dare un 55-45 al Chelsea. D'accordissimo su questo. Phil, mi spiace, devo salutare. Fare. No, volevo parlare anche di magliette taroccate, di queste banane. Facciamo un'altra banane. Volta. Sì. Niente. Non mi sorprenderei di vedere quelle magliette, lo dicevo prima, griffate e in vendita a €29,99. Sì. Una cosa, il gesto resta valido, e anche se hanno pensato di fare una campagna pubblicitaria, era perché comunque erano stanchi dei bu ricevuti dai tifosi dell'Espagnol a Cornellà, e quindi l'azione, per quanto economica di marketing, il pensiero iniziale resta validissimo. Su questo dubbi non ce ne sono. Grazie Filippo Maria Ricci. Ciao. Abbiamo un'altra ora per stare insieme dopo il GR. No, mi sembra un po' nervoso il mio collega, ma non ho niente da dire, perché veramente non è il giorno. Vedo questa bella città di Chieti e niente di più. Sul calcio e sulle partite abbiamo tante opportunità di parlare di questo. Sì, è una partita fantastica, giocata soprattutto il primo tempo in maniera eccezionale, con un ritmo, con un'intensità sia nella difesa che nell'attacco, che ha determinato la partita a nostro favore. Chi sa giocare, chi non sa non sa giocare. Mancini sa giocare, senza dubbio non devono ni parlare. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Secondo me non capisci di calcio. Balotelli e... Due ore da onesti e due per il malaffare. Chi sta parlando? Due ore da galli e mille da zanzare. Due ore per l'inferno, due per cantare messa. Per ritentare il gioco, per tutta la scommessa. E anche più di due magliette, molte più magliette da spedire in giro per il mondo. Chi sta parlando? Da questa, non so chi sta parlando, vediamo. 800240024, da questo simpatico manicomio che è tutti convocati. Ogni giorno due ore con voi e al migliore in campo tra gli ascoltatori, a giudizio del signor Piantanide inflessibile, di questo programma, c'è anche Claudio Schiattone, Roberto Scaltriti in regia. Bene, al migliore in campo la maglietta, e poi al miglior commentatore tra i nostri ascoltatori il premio, oltre che della maglietta, anche e soprattutto di, almeno spero non sia un castigo, di andare a ritirare qui convocato a fare l'opinionista per un giorno insieme a me, anzi al mio posto io suggerirei. Non sono d'accordo invece con l'ascoltatore che via SMS scrive: il ciclismo va abolito dopo aver sentito la notizia, un chi si è chiuso il giornale radio, cioè Ricco pizzicato un'altra volta. È un, ormai un bisogno di una comunità, io credo, perché pluricondannato, ormai fuori dal ciclismo. Il ciclismo non va abolito, vanno aboliti, ma presto, subito, quelli che, come Ricco, barano, cioè non c'è perdono. Io sono in, da questo punto di vista quello inflessibile sono io, ti beccano una volta, radiato, e poi vediamo a chi conviene anche economicamente fare il giochino. Bene, Marco Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Ti faccio sentire subito Guardiola e le sue, insomma, la sua missione, perché di questo si tratta. So che adesso non c'è argomento valido sulle mie idee, quando tu perdi 0-4 tu puoi dire quello che vuoi dire, tu non ce l'hai ragione, ma io non posso cambiare quello che sento, e quello che sento è che mi piace giocare con il pallone, mi piace che tutti giochiamo avanti e indietro con quella per attaccare il più meglio possibile, e al di là è quello che abbiamo fatto in Madrid, è quello che abbiamo fatto in Madrid, abbiamo fatto contropiede perché è impossibile non farlo, ma abbiamo giocato in Madrid, abbiamo giocato in Arsenal, abbiamo giocato in London, in Manchester, e la gruppa fase contro Manchester City anche tante volte qua in là. Ma dobbiamo riflettere se con questo giocatore è lo più adatto, e questo è che dobbiamo discutere veramente con la società. Quindi, ho perso ma non cambio idea, io sono questo, se vogliono cambiano i giocatori, altrimenti cambiano me. Dicevamo, Marco? Io volevo fare una considerazione proprio su Guardiola e Ancelotti. Guardiola si conferma una persona intelligente, perché mette in dubbio il suo modo di giocare, i giocatori che gli hanno messo a disposizione. Però quello che volevo dire io è questo. Che Guardiola, ma non, sì, non mette in dubbio il suo modo di giocare, cioè lui dice, no, la mia idea. Mette in dubbio i suoi giocatori. Ah, beh, sì, certo. Mette in dubbio i suoi. Quindi, non potendo cambiare tutti i giocatori che hanno vinto il triplete, che hanno fatto tutto quello che hanno fatto con Heynckes l'anno scorso, doveva partire per forza con questa base di giocatori. Però la mia considerazione è questa. Sono forti, Cioè, un squadrone. Che possono essere il Bayern Monaco, il Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, si può dire che se non c'entrano, diciamo così, l'obiettivo finale di Champions, è un mezzo fallimento il loro campionato, la loro annata. Torniamo al discorso di prima, no, ci sono delle squadre ormai, c'è questa oligarchia di squadre che è sovradimensionata rispetto ai campionati nazionali di appartenenza, tanto che io continuo a pormi il dubbio se abbiano ancora un senso, o se davvero non sia plausibile per il futuro tornare a parlare di Superlega, perché ormai Paris Saint Germain cosa c'entra il campionato francese, il Real Madrid e il Barcellona al di là del meraviglioso Atletico di quest'anno cosa c'entrano il campionato spagnolo, cioè sono realtà che sono costruite per altre cose. Poi mi fanno sempre molto ridere quelli che dicono all'obiettivo è vincere la Champions League, l'obiettivo è vincere la Champions League, poi succede che sbagli una partita e vai fuori, e quindi hai sbagliato o hai fallito. Non credo si possa parlare per queste squadre in linea di massima e in valore assoluto di fallimento, Marco, se non vince la Champions League. Dipende dal modo. Per la Juventus certamente è stata una stagione fallimentare in Champions League, e fallimento è la parola giusta. E per la Juventus è così importante, l'ho detto un miliardo di volte, per la Juventus e per Conte è così importante poter alzare questa Europa League. Per il Bayern Monaco certamente è un fallimento, ma per il modo, perché esiste modo e modo di uscire dalla Coppa, di essere eliminati, e perdere in quella maniera in casa, lì la forma diventa sostanza, è qualcosa che non può non lasciare il segno. Poi se chi andrà a casa delle due tra Chelsea e Atletico stasera non potrà mai parlare di fallimento, mai e poi mai. Non credo sarà una partita molto diversa da quella dell'andata, non credo sarà una cosa da ricordare calcisticamente parlando, però queste due non potranno mai parlare di fallimento. Paris Saint-Germain possiamo dire che ha fallito? Non me la sento, anche se è più forte del Chelsea, quindi anche lì dipende per il Real Madrid, ad esempio, è ovvio, il campionato, il titolo interno non ha un peso specifico così rilevante, mentre la decima è un'ossessione da quelle parti e sappiamo benissimo quale sia l'importanza specifica di questa coppa, quindi dipende. Clara, buongiorno. Sono qua. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io a quest'ora sono in giro per lavoro, per cui vi ascolto sempre. Bravissima. E mi fate una grande compagnia, una cosa bellissima. Fantastico, grazie. Io ho soltanto un piccolo pensiero. Quale? Riguardo la partita di ieri sera. Sì. Che è stato uno spettacolo unico. Me la sono goduta alla grande e poi me lo lasci dire, per favore. Mm-hmm. Un allenatore italiano con una squadra spagnola che batte il Bayern di Monaco. Sì, che rulla il Bayern di Monaco, che distrugge il Bayern di Monaco, neanche la battuta. Guardi, francamente è stato un po' come quando il nostro ferrarista spagnolo, Alonso, una macchina italiana, vinse l'Hockenheim. Cioè, francamente, sì, guardi, peccato che poi, il mondiale non l'ha vinto, quello fa lo stesso, mica cosa tanto. Vuole che le dica? Ieri sera è stata per me una grande soddisfazione, oltre ad aver visto un bel calcio. Sì, anche se Clara, secondo me, Carlo Ancelotti, vabbè, è italiano, gli vogliamo bene tutti, lo conosciamo calcisticamente da quando era ragazzino con la maglia numero 11 del Parma, quindi poi è una persona a cui non si può non voler bene. Io continuo a pensare che Ancelotti sia un grande allenatore europeo, quindi che poi porta in giro nell'animo ovviamente i nostri colori, ma non può essere identificato, credo, calcisticamente come allenatore italiano. Chiedo conforto a Gianni De Biasi. Ciao, sì, Gianni. Buongiorno Carlo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Posso definire Ancelotti un grande allenatore europeo? Un grandissimo allenatore a livello mondiale, non solo europeo. Credo che ieri sera, al di là di tutto, al di là di un risultato clamoroso, perché nessuno ipotizzava un 4-0 prima della partita, o uno 0-4 anzi, credo che Ancelotti sia stato, secondo me, straordinario nel far diventare una squadra, un nugolo di tanti primatori, non facile da gestire, tu sai meglio di me Carlo quanto sia difficile coinvolgere giocatori che hanno uno spessore così, così grande. No, che tu hanno sai meglio di me perché li hai gestiti tante volte. Se qualcuno sì. No, ve lo dicevo per coinvolgerti nel capire quanto fosse difficile il compito che aspettava a Carlo in una piazza sicuramente prestigiosa ma ambiziosa nel contempo, che a volte sembra produrre programmi strani, no? Sì, è vero. Ma sai Gianni, secondo me questa è davvero la chiave di tutto, che nel bene e nel male, cioè nel male per Guardiola, io continuo a pensare che per fare quel gioco devi avere la totale dedizione dei giocatori e probabilmente e crederci fino in fondo, cosa sì, che Guardiola però, probabilmente non Carlo, aveva. Quando poi hai uno che si chiama Beckenbauer che mette in discussione il tuo tiki-taka, capisci che da un certo punto di vista credo che sia una delle prime mine che vanno a innescarsi. Ieri sera la sostituzione come si chiama del Mandzukic, del trequartista davanti ha scatenato le ire poi dei tifosi, no? Perché questo ti dà l'idea di un lavoro che è stato fatto a livello anche psicologico nei confronti dei fans. Non mi viene in mente il trequartista. Müller, non mi veniva in mente in questo momento qua. È una cosa incredibile, voglio dire, qui passiamo veramente da un estremo all'altro, no? Qui si passa dalle stelle alle stalle in un battibaleno, perché basta pensare quanto poco ci si dimentichi che intanto il Bayern ha vinto il campionato, vabbè, non c'era ombra di dubbio, perché anche il Dortmund ci ha messo il suo quest'anno a non creare difficoltà, però qui da esaltarti passi a come perfetto stupido, capisci? Certo, però è una cosa che le critiche di Beckenbauer, questo balletto tra Mandzukic e Müller, possono giocare insieme, non possono giocare insieme, Guardiola che gioca senza, normalmente non, a Guardiola non piace il centravanti di riferimento, ha le sue idee e non è flessibile, non è malleabile, abbiamo sentito dire, dobbiamo interrogarci sul fatto, questi giocatori sono giusti per fare il mio gioco, perché io il mio gioco non lo cambio, io sono così, poi vediamo cosa succede, perché anche in questo probabilmente un po' di presunzione c'è. Sì, è vero Carlo, però I segnali li abbiamo avuti solo ed esclusivamente ieri sera, perché voglio interrogare tutto il popolo che segue il calcio, chi pensava minimamente che il Real Madrid, non le so le quote, non mi interessa, non è mai stato un mio problema, però credo che nessuno potesse ipotizzare che i Blancos andassero a vincere a Monaco contro il Bayern. Tutti credo che ponessero il Bayern come il favorito, al di là dell'1-0 dell'andata, che è stata una partita, secondo me, giocata molto meglio dal Bayern di quanto non l'avesse giocata ieri sera. Una squadra spenta dal punto di vista proprio fisico, mentale, una squadra che, al di là del tiki-tac, dei modi, degli interpreti, ma una squadra che è stata surclassata dal punto di vista fisico e motivazionale da parte del Real Madrid. Questo è l'aspetto principale. Beh, ma anche questo Guardiola comunque ha e si assume le sue responsabilità, perché è vero che era una squadra non all'altezza fisicamente e che ha mostrato l'accordo in questa occasione, perché poi uscire dalla Coppa, diceva prima un ascoltatore, è un fallimento, dipende anche dal modo. Perde in casa 4-0 con il Real Madrid e la forma diventa sostanza, perché diventa una partita epocale, no? Chiaro. Il Bayern secondo me resta uno squadrone che era campione d'Europa in carica fino a ieri sera alle 11. Io guarda, ti dico di più, voto la Germania come mia principale candidata per il titolo mondiale. Ha un sacco di giocatori giovani di grande talento, però vederla giocare così secondo me è un po' come costringere Bolt a correre i 5.000. Beh, sono d'accordo, probabilmente un po' questo integralismo da un certo punto di vista di Guardiola, che voleva portare avanti ad ogni costo, credo che sia stato un po' il limite di questa avventura a livello europeo, visto che in casa loro hanno vinto a mani basse. Credo che tutto sommato sia da interrogarsi su una squadra che spende quei soldi che spende, che arrivava chiaramente da un triplete importantissimo. Fare meglio è sempre difficile, sinceramente, da tanti punti di vista, dal punto di vista mentale, dal punto di vista motivazionale e quant'altro, però è anche tecnico. E non so adesso le mani di Guardiola quanto abbiano inciso nella debacle della... Sì, sicuramente non è riuscito a toccare le corde giuste per motivare giocatori che avevano già, tra virgolette, la pancia piena. Certo, e guarda, un altro appunto... Vediamo Ancelotti e vediamo Mourinho, no, in questo momento. Entrambi hanno un dono supremo per i grandi allenatori, cioè i loro giocatori li seguono fino all'inferno, con modi opposti quasi. Ancelotti ha una maniera di gestire il gruppo, Mourinho ne ha un'altra totalmente diversa. E questo permette loro di dare un senso anche alle loro intuizioni. Pirlo e Seedorf per Ancelotti nel Milan, ma Eto'o per Mourinho nell'Inter. Ieri sera guardavo Di Maria, che era un esterno, chiaramente è sempre stato chiaramente un grande esterno. Ebbene, adesso fa la mezzala. E che mezzala! Mamma mia, ha fatto una partita strepitosa, ma non solo questa, ma anche nella partita d'andata. Ma quello che mi piace vedere è anche il coinvolgimento di Benzema, un giocatore che sicuramente non brilla per la fase difensiva. Ieri sera ha dato una mano straordinaria, ma lo stesso Bale, lo stesso Cristiano Ronaldo, per quanto ha potuto, si sono battuti con grande energia, con grande vigore. Quello che ti dicevo prima, secondo me, il fatto di far diventare squadra un gruppo di solisti, questa è secondo me il grande pregio di Carlo, con la sua bonarietà, con la sua pacatezza, però è riuscito a coinvolgerli in un modo o nell'altro, ed è questo l'obiettivo. Uno ha le sue chiavi per entrare nella testa delle persone, Carlo ci è riuscito. Gianni, ti chiedo un'ultima cosa: da allenatore di una nazionale straniera, dell'Albania, quindi totalmente super partes, quanto conta per la Juventus vincere l'Europa League? Quanto conta per Conte vincere l'Europa League? Credo che conti tantissimo, e bisticci parole, per Conte, vincere questa Europa League, perché secondo me si dà uno spessore internazionale importante e può eventualmente ambire a un palcoscenico europeo, magari anche fuori dai confini italiani, e visto e considerato che dopo 3 anni credo sia molto dura ripetersi con lo stesso gruppo. Credo che sia questo adesso l'interrogativo da porsi per la Juve, esattamente quello che penso io. Ma poi sono allenatori che, insomma, 3 anni sono la durata del ciclo, secondo me. Sì, io lo credo, anch'io. L'ho vissuto sulla mia pelle in piccolo, ma voglio dire, quando stai 3 anni con un gruppo diventa poi problematico e poi non diventa più incisivo il tuo modo di intervenire, perché poi vieni classificato sempre le stesse cose, sempre, capisci? Sì, ti capisco perfettamente. E quindi, cioè, è stato un ciclo meraviglioso in Italia. È chiaro che una squadra come la Juventus deve dare una cornice europea, come questa Juventus deve dare una cornice europea a quanto fatto, e Conte deve costruire questa cornice europea in modo proprio da incorniciare questo ciclo. Esattamente, io credo che se domani sera la Juve, come tutti ci auguriamo, riuscirà nell'impresa, poi credo che lo scoglio finale sia meno difficile, lo dico ma toccando ferro, di quanto possa essere la partita di domani sera contro il Benfica. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi, sempre un piacere. Grazie, ciao, Gianni, anche per me. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. O Fernando da Siena, buongiorno. Buongiorno Carlo, per l'appunto stai parlando con un juventino che ti ascoltava con attenzione e provo a fare un attimo l'avvocato del diavolo. Io, fermo restando che incrocio le dita per domani sera ovviamente, però ho seguito la stagione europea della Juventus, io ho una sensazione che come campionato e di conseguenza come squadre noi ci stiamo allontanando dalla vetta delle competizioni europee. Sì, ci stiamo allontanando dalla vetta delle competizioni europee perché girano pochi quattrini dalle nostre parti. Fino a 3 anni fa eravamo sulla vetta delle competizioni europee perché c'erano i Berlusconi e Moratti che ce li mettevano e dunque li stavamo. Mi auguro che possa essere ancora un discorso di tipo congiunturale. È chiaro che bisogna cambiare qualcosa in modo di gestire il calcio, bla bla bla bla, possiamo dire un sacco di cose. Certamente le nostre sono più lontane dalla vetta, però io, caro Ferdinando, sono convinto anche di un'altra cosa, cioè che queste realtà, che queste entità, cioè il Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti e la Juventus della famiglia Agnelli, di tutto ciò che rappresenta, siano squadre che non, così come il Bayern Monaco, così come tutte queste squadre non rappresentino tanto il loro movimento, rappresentino più che altro se stesse, cioè sono grandi squadre, direi quasi autoreferenziali, non direi è il movimento che adesso batte in testa perché non ci sono i soldi e quindi non riusciamo più a produrre giocatori, non riusciamo più a produrre squadre di livello. Purtroppo non, in questo momento non c'è in Italia un magnate in grado di mettere lì un sacco di soldi e costruire una squadra da triplete come ha fatto Moratti 3 anni fa. Credo. Luca, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, gente. Niente, io avevo telefonato per lanciare una proposta che io mi ispiro spesso al mondo del rugby. Il mondo del rugby a livello europeo ha una competizione che diciamo non prende tutti gli stati, ma ne prende molti. Noi abbiamo due rappresentanti in quello che è la Celtic League o la Rabo Direct, sì. Dove praticamente le squadre top dei vari campionati si sfidano in un campionato vero e proprio e non in una coppa pronti via, ecco. Quindi lei sta parlando di Superlega, poi è chiaro che la Celtic League è un esempio abbastanza particolare, uno potrebbe domandarsi ma cosa ci fanno le squadre italiane nella Celtic League, che è di ispirazione, di nascita e di genesi anglosassone. Anche quello discorso commerciale, io sono sempre stato favorevole alla partecipazione delle squadre italiane a quel tipo di torneo perché in teoria potrebbe consentirci di crescere, cosa che sta avvenendo molto a rate, molto, in maniera molto dilazionata nel tempo. Comunque lei dice l'ideale sarebbe un torneo europeo, cioè un campionato europeo, una Superlega, una cosa di questo genere, dove in realtà si dà l'opportunità di non avere purtroppo degli scontri diretti, dove magari i lavori di un anno si perdono perché si sbaglia una partita, come ha detto lei prima, ma si fa un lavoro di un anno e c'è un gioco di livello dove in un campionato vero e proprio si può vedere i frutti del lavoro e del sacrificio di intere squadre, ecco. Sì, ma poi anche perché nel rugby non è meno evidente, questo è meno evidente, però nel calcio lei sa benissimo, come dicevo prima, ci sono squadre sovradimensionate rispetto ai rispettivi tornei. Questo non accade ad esempio al campionato di rugby francese o inglese, dove le squadre di livello sono molte e il livello è complessivo è altissimo. Ora stiamo parlando, lo vediamo quando andiamo nelle coppe europee con le squadre italiane di rugby, che veramente sembra come squadre minori che, sì, che non c'entrano niente. Certamente, certamente. Grazie Luca, a presto. Bene, buongiorno. Arrivederci, salve, buongiorno. Borsa, poi ancora qui fino alle 16. Adesso è l'appuntamento con la borsa. La borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Tutti convocati. Oggi è tutto molto più facile con internet, sai, vedi tante cose, ma lui in quel momento portava il Brasile in tutto il mondo. Era un personaggio, un brasiliano che portava il nome del Brasile, la bandiera. Poi, sai, era un personaggio fantastico per noi. Diciamo, oggi con la globalizzazione si vedono brasiliani dappertutto, però in quel momento, sai, lui forse era quello più importante. Poi nel 94 il Brasile ha vinto il mondiale di calcio, però diciamo, era... E poi come persona era uno che era sempre molto attaccato alla famiglia, c'era dei valori belli, e poi era un grandissimo campione. Ero in trattativa con il signor Cruciani, che mi ha mandato una serie di messaggi SMS, così vi dico. Tiki-taka non c'entra nulla, tiki-taka integralismo, tutte cazzate. Quindi lui sostiene che la questione è solo che il Bayern ha vinto il campionato troppo presto. Ovviamente non sono d'accordo, gli ho detto vieni oggi o domani. Bene, viene domani, così possiamo litigare in santa pace anche con voi. 800 24 00 24 è il numero verde, fatevi sotto. Venghino, si rivenghino per le magliette. Tanto abbiamo sentito ovviamente il commento di Kakà su Ayrton Senna e su quello che rappresenta, rappresentato, rappresenterà per l'eternità. Domani, vi ricordo, alle 15.30, dalle 15.30 alle 16 avremo una pagina interamente dedicata ad Ayrton, curata da Dario Ricci. Se inviate il vostro commento file MP3 attraverso il nostro sito radio24.it, trovate tutte le istruzioni del caso. Commento del giorno, un ricordo di Senna. Migliore tra di voi verrà qui a commentare lo sport insieme a me e riderà una maglietta di tutti i convocati autografata. Carlo, provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire a proposito della Celtic Liga e sul titolo che le squadre italiane hanno di parteciparvi. Ricordo che da Senigallia in su il Nord Italia è di sangue celtico. Sì. Che non è anglosassone, gli anglosassoni non sono celti. Sì. I celti sono i nord italiani, i gallesi, gallesi, scozzesi, francesi, Cornovaglia, e i Gloriman. Sì. Punto. Chi sta parlando? Sì. Carlo della provincia di Latina. Ci siamo al pieno titolo dentro. No, però va bene, non ne farei un discorso di estrazione, di provenienza etnica, Carlo, ne faccio un discorso un po' più sportivo, molto più semplicisticamente se vuole, discorso un po' più sportivo, quello è un torneo anglosassone con squadre anglosassoni che hanno una realtà che nulla c'entra con il nostro campionato. Due squadre italiane sono state ammesse questo tempo fa e ne fui ben felice perché dicevo chissà che questo ci permetta di dare nuova linfa alla nazionale. Auspicavo ci potesse essere una sorta di Club Italia a partecipare a questo tipo di torneo che indubbiamente è di alto livello. Poi se vogliamo questo non è avvenuto, credo che non la provenienza, la stirpe celtica degli abitanti del nord Italia abbia inciso zero sulla ammissione di due squadre italiane alla Celtic League, ma veramente zero. Forse non so quanti lo sappiano tra quelli che hanno deciso questa ammissione. Paolo, secondo me non capisci di calcio. Vero Mario, è vero, verissimo, neanche di rugby. Paolo, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, sono Paolo d'Ancona. Buongiorno. Buongiorno, una considerazione brevissima, spero di non vedere questa sera una partita come quella di ieri, perché penso che se, a meno che uno non fosse un tifoso del Real, proprio spagnolo, sì, di Madrid, la morte del calcio. Molti si sono messi a fare altro dopo il 34esimo minuto. Esatto, ecco, quindi no, mi riallacciavo alla signora che diceva che ha avuto questa grande soddisfazione di vedere la partita di ieri, ora sarà anche tifosa di Ancelotti. Però ecco, spero di non vedere una partita uguale a quella. Non credo ci sia il rischio, però di no, vedere, ci sarà un sacco di pathos. Io mi aspetto di vedere una partita che sarà l'ideale prosecuzione della gara di andata, quella dei pullman a due piani. Sì, infatti, una cosa che poi non c'entra, però siccome sono interista, allora vorrei anche che le squadre italiane contribuissero tutto ad aumentare il ranking del calcio italiano. Non ci credo, non dica bugie. Però deve andare a confessarsi, non dica bugie, non ci credo. Appunto, se c'è qualche interista che invece pensa diversamente da quello che penso io, cioè io non riesco a tifare Juventus. Ecco, ha finito di dire bugie quindi. Non esiste un interista che ti farà Juventus che domani sera, non esiste. Chi dice sono interista tipo Juventus dice una bugia. Almeno io non ci credo. Posso farci. Senta, ma lei che è interista, quando dicono che Mourinho è difensivista e nell'Inter giocava Eto'o, Pandev, Sneijder, più Mourinho, Milito, giocavano tutti. Una volta li ha messi in campo tutti insieme in Coppa, non ricordo esattamente la partita. Aiutami Franco Piantanide, la prima volta che farò questo esperimento di tutto l'arsenale offensivo in campo Mourinho in Champions League. Poteva essere quella Dinamo Kiev. E mise in campo Eto'o e Pandev, Sneijder e Milito, e perché altri non ne aveva, se no metteva in campo anche altri attaccanti. Ma lo stesso fa con il Chelsea. Non ha attaccanti di straordinario livello, però comunque fa giocare molti giocatori dalla vocazione offensiva. E sarebbe un catenacciaro, no Paolo? È così? Ma io allora Mourinho. Sarà che è arrivato dopo decenni di astinenza, però io veramente tutto quello che ha fatto, anche la sua antipatia, mi stava simpatica, e è un allenatore che per me non so come fa a motivare così tanto i giocatori, al di là di quelli che mette in campo. Cioè, stasera lo vedremo, se avremo, penso, l'ennesima risposta, sì. Al di là che possa anche perdere, per carità, anzi, non dico che... Che dall'altra parte poi c'è un carissimo Diego Simeone, quindi guardo rilassato la partita, via. Comunque vada, cade in piedi, il suo tifo sarà soddisfatto e con buona pace di tutti, interisti e antinteristi. Vi domando gli antinteristi per chi ti faranno stasera. Dura, eh? Allora, vorrei sentire a questo punto una intercettazione. I don't do anything wrong. Nobody said you did anything wrong. I don't do anything wrong. If we ever have any issues, it's because people call you and tell you things about me that are not true. Why are you broadcasting? I'm not broadcasting anything. Taking pictures with minorities. Why? What's wrong with minorities? What's wrong with black people? Nothing. What's wrong with these families? It's like talking to an enemy. There's nothing wrong with minorities. They're fabulous. Because you're an enemy to me. Non portare neri alle partite della mia squadra. Con loro puoi fare quello che vuoi, ci puoi anche andare a letto, ma non li devi portare alla mia squadra. Una foto con Magic Johnson. Magic Johnson, puoi ammirarlo in privato, puoi dargli da mangiare, ma non mettere la foto su Instagram e non portarlo alle mie partite, perché ti fai fotografare con le minoranze. Signor Donald Sterling, questo al telefono con la sua fidanzata, tra l'altro meraviglioso esempio di melting pot, la modella V. Stiviano. Simone Sandri da New York, buongiorno. Buongiorno Carlo. Bel casino, eh? Gestito. Gestito che l'NBA ha gestito non con troppa diplomazia, non con troppo ricorso all'arte politica o diplomatica, come avremmo fatto in Italia, ma con la scure, giusto? Giusto, sì, devo dire che è stato il primo vero esame di Adam Silver da commissioner, passato, superato a primi voti, è stato molto deciso ieri alla conferenza stampa e ho notato, quando è entrato Adam Silver, un uomo incredibilmente nervoso e che sentiva veramente il momento. E Stern aveva questo atteggiamento di quando entrava nelle conferenze stampa, che aveva questa aria veramente da superstar, da da cantante che entra sul palco e da lui ti aspetti una performance di grandissimo livello. Invece Silver è entrato in quel punto di piedi nervoso e poi invece, come hai detto tu, ha dato questa mannagliata, questa scura sulla testa di Sterling con permessa, ricevendo gli applausi da parte di tutto il mondo NBA e non solo, diciamo di tutto il mondo sportivo e non americano. Però adesso inizia il difficile, se pensiamo che sia tutto finito ci stiamo perdendo. No, perché l'NBA ha detto tu vai fuori, cioè non potrai più essere proprietario dei Los Angeles Clippers, non vogliamo gente come te, super multa da 2,5 milioni di dollari. Adesso però la squadra che succede? A chi la vende? Cioè è obbligato a venderla? Sì. Stiamo parlando di un business che ha determinate regole. È ovvio che la NBA dal punto di vista sportivo il commissario può fare quello che vuole perché ha questo potere, ha il potere di squalificare la vita Sterling. Quando si tratta di imporgli una vendita è ovvio che è un po' più complesso. Ha bisogno innanzitutto del parere positivo del 75% dei proprietari NBA, ma e credo che quello non ci saranno dubbi, no? Sì, in linea teorica non ci saranno dubbi, in linea pratica quando però gli avvocati si metteranno, quando però verranno consultati tutti gli avvocati, si capirà quali sono poi gli effetti di questa cosa farà poi Sterling. Se Sterling dovesse, come un po' tutti si aspettano, andare per vie legali, cosa succederà? Ci sarà probabilmente una denuncia nei confronti Sterling denuncerà la NBA, gli altri proprietari. Se dovesse andare in tribunale questa cosa, Sterling magari non dimentichiamoci, da più da 30 anni al tavolo del NBA, per cui conosce anche scheletri nell'armadio di tante altre persone, magari porterà sul tavolo cose fatte da altri proprietari senza ricevere le punizioni adeguate. Per cui il concetto di fondo è quello che è stato fatto da Silver è stata la cosa più giusta, secondo me, secondo un po' tutti. Anche l'idea di chiedere a Sterling di vendere la squadra, il problema sarà convincerlo a farlo magari in maniera non molto rumorosa. Ci sono negli ultimi anni sono anche uscite i problemi legati proprio al prezzo, al problema di tasse, se è giusto dal punto di vista del business costringere un proprietario a vendere una squadra facendo sì che il prezzo venga per forza di cose abbassato, perché sì. Ovviamente se un compratore sa che un venditore deve per forza venderla. Vabbè, questo è evidente, è una cosa molto complicata, cioè praticamente la NBA ha squalificato a vita Sterling per queste dichiarazioni che sono state intercettate, lo ha squalificato a vita, ha detto non ti vogliamo più nell'NBA, solo che c'è un piccolo problema che è il proprietario di una azienda di grandi dimensioni come i Los Angeles Clippers. Simone, ti prego di rimanere un attimo in linea. Peraltro sì. Carlo, dovrei fare dal punto di vista sportivo, ovviamente sì, può fare quello che vuole, però quando si tratta di un punto di vista legale, innanzitutto queste fasi che sono state prese dalla federazione sono state attraverso una conversazione privata, secondo alcuni anche illegalmente ottenute. Per sì. Cui, se fosse un caso, se dovesse andare in tribunale, bisognerà discutere se anche cosa si potrà fare, se questo può essere considerato da un punto di vista veramente legale, se può essere considerato valida questa intercettazione. In più, come dicevo prima, c'è una situazione veramente complessa e, come ho detto prima, inizia il difficile dal punto di vista legale, inizia adesso, vediamo cosa succederà. Grazie Simone, stai lì però, che dopo il traffico vorrei anche insomma due battute su ciò che sta accadendo nei playoff, perché c'è una delle grandi favorite, ok sì, Oklahoma City, la squadra di quel mostro Kevin Durant, che è sull'orlo del baratro. Tutti convocati. Allora, Simone Sandri, non solo Donald Sterling, anche se l'argomento che tiene banco più ancora dei playoff, credo in questo momento in America. Ebbene, i Clippers attualmente di Donald Sterling sono avanti 3-2 con Golden State in una serie incertissima, ma credo, Simone, che finiranno per pagare sul campo tutto questo casino, tutto questo clamore e rumore. Ci sono solo due squadre qualificate per il secondo turno, entrambe a est, e sono Washington, che ha eliminato a sorpresa Chicago, e Miami, che si è sbarazzata facilmente di Charlotte. Indiana, che è al secondo record di tutta l'NBA è sotto 3-2 con Atlanta, ma tu mi hai detto l'altra volta, pochi giorni fa, che è in profonda crisi. Mentre Oklahoma, Memphis 2-3, con Memphis che ha il match ball per realizzare forse la sorpresa più grossa degli ultimi anni nei playoff, cioè l'eliminazione di Oklahoma City di Kevin Durant. Se pensiamo, infatti, la cosa secondo me assurda di questo discorso su Sterling è che sta gettando ombra su il primo turno a livello generale più bello che io mi ricordo da quando seguo le NBA, e sono quasi 20 anni. Serie assolutamente affascinanti, sorprese su sorprese. Hai detto giustamente, i Wizards hanno superato i Bulls, che è una delle squadre che stava meglio ad est, e i Wizards hanno veramente fatto una serie straordinaria. La serie tra Memphis e Oklahoma City è veramente spaziale, 4 supplementari di fila, e adesso Memphis è in vantaggio. Oklahoma deve andare a vincere a Memphis, cosa difficilissima per restare in vita. Hai ragione, Oklahoma era la favorita, anche se San Antonio aveva il record migliore, secondo molti era la favorita ad ovest, era Oklahoma, perché Durant, che vincerà sicuramente il premio MVP, è reduce da una stagione assolutamente incredibile, una serie spaziale. Devo dire però che se consideriamo che da una parte Indiana, che sembrava almeno fino a qualche mese la grande favorita ad est, e ad ovest Oklahoma City la grande favorita, le due rischiano di non uscire dal primo turno, è veramente qualcosa di assurdo. Sì, c'è anche, volendo, c'è anche San Antonio, che ha il miglior record di tutta l'NBA. San Antonio che è la squadra dei soliti vecchi bucanieri che tentano l'ultimo assalto al titolo. Ebbene, sono 2-2 con Dallas, che è una squadra assolutamente impronosticabile, no? Al di là di Nowitzki, al di là di delle solite scintille di talento, però certamente non era mai stata considerata una squadra da corsa nei playoff. Ebbene, 2-2. Sì, è vero, però come abbiamo detto anche la settimana scorsa, io ho proprio feeling in questa serie che alla fine San Antonio in un modo o nell'altro la porta a casa. Ce l'ho anch'io, però intanto è 2-2. E peraltro vincendo quella partita in maniera anche strana, anche un po' fortunata, sprecando vantaggi di 20 punti, per cui tutto, sicuramente se guardo il campo tutto può succedere in questa serie qua. È più una sensazione a pelle che ho la sensazione che in un modo o nell'altro la porti a casa. Poi è vero che tutto può succedere, veramente nel primo turno così io non me lo ricordo, perché e anche Miami, abbiamo detto anche l'altra volta, se non si fosse fatto male Jefferson la soffriva questa serie anche con Charlotte Miami, per cui sembra quasi che tutto sia fatto apposta per far tornare Miami in finale, perché adesso le contendenti vanno giù come i birilli e Miami invece viaggia spedita. Senti, un'ultima cosa, sei sempre convinto che a Indiana il giocattolo si sia rotto, Indiana ancora in vita 3-2 con Atlanta, e che alla fine invece hai la sensazione in questo caso Indiana andrà fuori? Purtroppo sì, se pensiamo che la partita in cui dovevano tirare fuori il carattere, in gara 5, in casa, dopo aver in un modo o nell'altro portato a casa gara 4, Ibert, che è il giocatore più criticato, è quello sotto la lente del microscopio, ha fatto 0-0, 0 punti, 0 rimbalzi, uno star, cioè un giocatore che ci deve caricare sciopero bianco, la squadra sulle spalle, e assolutamente non ci sono, secondo me non ci sono possibilità che questi trovino il modo di cambiare passo, purtroppo. Sciopero totale, roba da fosse in Italia sarebbe già scattata l'ufficio inchieste. Ciao Simone, grazie. Ciao, grazie. Ciao Simone Sandri. Dunque, la vicenda Sterling è davvero un gran casino, perché Simone Sandri ci ha spiegato, abbiamo capito, abbiamo letto in questi giorni, insomma, gli hanno detto tu vai fuori e adesso vendi la squadra. Va bene, ok, tutti contenti, una decisione estremamente popolare, di questo caso hanno parlato tutti, da Obama in giù. Soltanto che adesso, tu la vendi e chi la compra? Questo è interessante, sarà argomento estivo. Enrico Verona, buongiorno. Sì, salve, ottima trasmissione. Grazie. Devo dire una cosa, ho visto la partita della Juventus l'altro giorno, tiro di Zaza, deviazione di Obama, gol. In questo caso il gol è stato assegnato a Zaza. Partita del Verona, tiro di testa, Toni, il portiere di Esia, e finisce gol. Autogol. Che differenza c'è? Non lo so, sinceramente non lo so, ma io ho rinunciato anche a capire quale differenza ci sia tra una deviazione rilevante per la quale viene dato un gol all'attaccante e una deviazione che invece viene considerata ininfluente. Mi sembrano abbastanza questioni di dettaglio. Quello dell'altra sera di Sassuolo-Juventus, io sinceramente ho rinunciato a capirlo. Poi, dato che la vicenda non mi ha appassionato così tanto, non sono andato a approfondirla neppure dal punto di vista regolamentare. Invece vi dico che Franco Biancaneda mi ha subito nell'orecchio un paio di numeri relativi alla vicenda Sterling da brividi. Questo signore ha preso, ha comprato i Los Angeles Clippers, franchigia NBA, ma allora ai tempi disastrata, anni fa, per 5 milioni di dollari. Provate a indovinare quanto valgono adesso i Los Angeles Clippers. Ve lo dico io, c'è tempo, non c'è tempo per le risposte. 600 milioni di dollari. Quindi deve, è obbligato a vendere una azienda da 600 milioni di dollari. Ne è interessato Marco, provincia di Alessandria? Ce li ha? Sì, no, sono di Milano, sono Alessandria per lavoro. Beh, ma ce li ha 600 da dare a Sterling, sì, per comprare i Clippers? No, ma ci pensiamo, ci mettiamo in due o tre. No. Sì. Dica. Ascolti, ma non capisco tutto questo cancan sulle dichiarazioni di questo riccone, mi sembra, sono dichiarazioni private, ognuno a casa sua è libero di dire quello che vuole, sì. Sarebbe stato più grave se lui l'avesse detto in pubblico, ma mi sembra estremamente grave che sia stato intercettato, non so da chi, dalla magistratura, da giornalisti, eccetera, e sia stato spiattellato tutto. Allora, voglio dire, a me non piacciono la frutta di mare, va bene? Allora, se io dico in privato che la frutta di mare mi fa schifo, vuol dire che danneggio l'industria ittica in Italia e mi posso denunciare? No, però succede che Sterling comunque è un personaggio pubblico, è inutile insomma nascondere che queste dichiarazioni pronunciate da un personaggio pubblico abbiano questo tipo di valenza, di valore. Sterling è proprietario, come dicevo, di una azienda americana di grandi dimensioni che vive in un sistema, e dunque fatalmente le sue dichiarazioni hanno un peso specifico molto rilevante. Poi a Marco, sul punto, sono state estorte, non sono state estorte, qui entriamo su terreni che conosciamo molto bene qui in Italia, ma che sono che richiedono una conoscenza molto più approfondita di questo tipo di vicenda. Non so da dove provengono queste intercettazioni, non so quale valore legale possano avere, non lo sa neanche Simone Sandri, probabilmente non lo sanno ancora molti degli interessati. Per ora è una vicenda, ma anche a questo in Italia siamo abituati, estremamente mediatica, però non possiamo dire le dichiarazioni di Donald Sterling, multimiliardario americano e proprietario oltre dei Clippers di svariate altre cose, non possiamo dire vabbè, ma sono fatti suoi, sono dichiarazioni che possono tranquillamente passare in cavalleria, perché non è così. Ecco che arriva il migliore in campo di oggi, Franco. Eccolo, sta facendo a panic anche lei? No, sono qui pronto per lei. Benissimo, sveglio, dica. Allora, io volevo fare un saluto a Fardo. Viva la Juve, chi dice viva la Juve? Se di viva la Juve in sottofondo. Sono degli amici, dei colleghi di lavoro. Però io sono napoletano, sono tifoso del Napoli. Viva la Juve! E volevo fare un elogio ad Ancelotti, perché è un signore che ha portato, diciamo, il nome dell'Italia in alto. Sì, e anche soprattutto il suo. Intanto lì continua a dirle viva la Juve, lei che è napoletano. Allenatori, sì, vince i Chelsea, è stato il merito di Mourinho, e diamo anche il merito ad Ancelotti, che quando si finisce al Madrid è merito suo. Ecco, però abbiamo bisogno un carico di magliette, perché io la manderei a Franco, ma anche ai suoi amici che dicevano viva la Juve, viva la Juve. Povero Franco. Secondo me non capisci di calcio. Va bene Mario, non t'arrabbiare. Tanto abbiamo finito, ricominciamo domani. Franco Biancaneda, autore di questo programma, Claudio Schiattone, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti.